quero de mim. Non vivo sulla strada, ma mi giri sulla strada. Osservo ciò che mi circonda, è una città annoiata. Qui non ci sono spazi e qui non c'è sintonia. Io vedo solo gente con la foto di andar via. Welcome to casa mia e nei yes mi casa. Monotonia che dilaga e gente che sbraga. Croce imperia brucia dove portatemi del napalm. Vita pare spinto, 13ª puntata. Oneglia porto prino porto neglia. Mentalità bigotta e l'anziano ti osserva. Dietro la finestra pronto con il cellulare. Carazzo che ho il cazzo non avendo di meglio da fare. Mare di ipocrisia, l'umore in ipotermia. Un'epidemia ed è fattioso la terapia. Da Bastiana e Pierino seduti in piazza sul gradino. 18 centi imperi a nome Simo. Situazione invivibile, sfiorando l'incredibile. Questa impera town, beh, oltre ogni limite. Modifica mobibile, per stati di coscienza. La nostra dipendenza è marcare la cadenza. Scadenza, a lunga percorrenza. Ma pensa, non possiamo starne senza questa incoerenza. Attrezza il bagaglio culturale. Guarda l'orizzonte e dai prova a scappare. Rema contro vento, 20 anni e sei già spento. Immerso nel tuo ego, pensando al pentimento. Certo che imperia chi rifiuta. Se ogni giorno che ci vivi chiedi la giunta. Speranza voi che non riuscite a uscire. Passeggiate come l'ora d'aria, se riesci a capire. I miei coetanei, laureati o commercialiste. Io vedo intorno solo gente che commercia piste. Me lo spieghi chi l'ha presa nel verso più giusto. Se basta accontentarsi, qui mi ci fanno un busto. Chiudo gli occhi sperando di cambiare paesaggio. Ma rimbomba nelle orecchie suono di un altro pestaggio. Ed il ragazzo che barcolla rimane solo il miraggio. L'unico buon viaggio, quello inchinato sotto il portico dopo il mio beveraggio. Le persone che si scannano e mi ci trovo in mezzo. Ci penso e rido di me stesso tanto. Prendersela inutile, trovo tutto ridicolo. È normale lo scambio di fiali in mezzo al vicolo. Poi li vedi come zombie dal colore cadaverico. Occhi girati da ricovero. Stringo mano a chi ha 10 anni di galera nel curriculum. Ti lascio il vademecum di questa cittadina. Leggo la locandina dal tabaccaio. Ogni mattina la speranza che non ci sia un nuovo guaio. E quante volte abbiamo rischiato col conducente ubriaco armato. I vetri rotti per il bagno non pagato. Qui si conoscono tutti, è come stare a Springfield. Mi sento l'Huckleberry Finn italiano. Un cazzo di paesano. Mi manca solo il cappello di paglia e la spiga di grano. Ehi. Quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir, quero te unir,